detto io. E allora ci hai toccato qualcosa? Ma io non ho toccato niente. E ma perché non so? E io ti sento. Mi senti per niente? Allora, io ti sento, sei tu che non senti a me. Adesso ti sento, ti sento anche bene. E cosa hai toccato? Allora. Sì, a Giovanni. Adesso mi senti? Sì, ti sento bene. Sì, tutto bene, tutto bene. Tu mi ascolti bene, sì. Sì, bene, bene. Andave, andave. Mamma mia, calori. Da casa ci sentiamo, vai. Ehi, Giomari. E cerchiamo da su, dai, che sta così adesso. Ok. Giomari. Dimmi, Manuè, Manuè. Ehi, Mi senti? Sì, ti sento, Giomari. Ma mi senti? Ehi, Io non ti sento bene. E alza il volume. Adesso ti ho sentito perfettamente. Io ti sarò chiamando il 27. Ma Giovanni, Giovanni. Sei vivo, no? Ehi, tutto a posto, sì. Sì, tutto a posto, tutto a posto. Andave, andave. Cazzo, cacareto, giburo. Cacareto, giburo, ha giurito. Via, già è finito. Via, per carità. Ma che cosa vuoi fare, Manuè? C'era questo venticello prima, aveva cazzo di ormai configurare a base. Ma qua sotto il portone c'è un'arietta bella, fresca, che va a meraviglia, Ma dove sei? Sotto il portone? Sì, sotto il portone. E se vedi il magazzino? Ma della verità, ci ho comprato un sacco, ci ho troppo gas in casa, me ne sono comprato un po' cagioso. Andave. E ora mi trasso a casa, Manuè. Ciao, ci sentiamo da casa, vai. E adesso mi assento un attimo e vado a farmi una luce. Che almeno mi rinfresco un po'. Capo figlio, mi chiamo il bagliso, va bene? Cos'è? Giomari, Giomari. Dimmi. Cos'è che hai detto che non ti ho capito? Detto, ci sentiamo da casa. Quando finisci la festa luce, chiamami, già rispondo. Ehi, ma sei un lutto, a quell'ora tu non entri più. E fra 10 minuti sarò anche sopra, dai. Ehi, ok, dai, ci sentiamo dopo, dai, già ti chiamo qua.